del significare i concetti. Questi concetti che ha l'uomo nell'anima può far palesi agli altri generalmente in tre modi, o imitando, o significando, o congiungendo ambidue questi. L'esempio del primo è, avendo fatto concetto del toro o del leone, dipingere la similitudine del toro o del leone. E questo sarebbe una sorta di imitazione, perché diversamente si può imitare. Del secondo è come sogliono far le guardie marittime, le quali, volendo far palese a suoi che sorte di naviglio è apparso di lontano, mostrano per segno or bandiera or ramo e altro ancora, perché mediante diverse cose e con diversi mezzi si può significare. Del terzo modo esempio è come fanno i mutoli, perché quelli che vogliono palesare i loro concetti parte fanno imitando con gesti e figure e altri movimenti delle mani e della persona, parte significano con diversi movimenti senza imitare alcuna cosa, e per solito costume vengono ad essere intesi. Giorgio Bartoli.